Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. La seconda parte di Eclettica, la seconda mezz'ora dell'ora che tutte le sere mi vede presente fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. È Giulio Caperdoni che vi sta parlando, indirizzo giulio@rockfm.com. Seconda parte che si è aperta con The Mountain Goats, con un estratto dal loro nuovissimo Heretic Pride, Autoclave è il titolo del pezzo, quando invece la prima si era chiusa con la sequenza Kelly Stoltz e Your Reverie, seguito da The Warlocks con So Paranoid. E si prosegue con un'assoluta novità, un disco che uscirà per Ecstatic Peace il 18 di marzo, un trio che arriva da Brooklyn, loro si chiamano Tall Furs. Questo disco si intitolerà Too Old to Die Young e il brano è Hairdo. Le cose stavano proprio così. Tutto intorno a Corona non c'erano altro che boschi, e giù in fondo, nel mezzo, una grande pianura. E nella pianura, proprio nel mezzo anche qui, c'era la casa di Tobby e di Lamba e di sua madre e del maestro Laerte e degli altri 200 castori. Nella casa c'era tutto quello che occorreva, come un bel prato, erba soffice fresca e perfino un laghetto grande come una piazza, a dir poco. E anche quello che non occorreva per niente, come per esempio le gabbie. E attorno alla casa si stendeva una rete lunghissima ed alta e tutta quanta di filo spinato. E questa poi occorreva anche meno. Questo era l'incipit di Tobby in prigione, di Silvio D'Arza. At the top of the world there's an island, a place where the sun never shines, but the people don't care because the snow over there is so bright they nearly go blind. Foot of a mountain where the flowers last hardly a day, but they live off the land and lend each other a hand on this island where night is their day. They have punished me if I dare tell you, and if I ask them they'd say they don't know. But what keeps them healthy even though they're not wealthy on this magical island is snow. As they fall look like candy, the children rush out when it snows for a treat, then they open their mouths and gulp down the flakes, because nothing on earth tastes so sweet. But then one dark day, smoke blew in their way and the temperatures got higher. On the horizon they saw fire, and the waters did rise, and the snow started melting away. And the people weren't tearful, are fearful or scared, because the secret was out there. At last, the secret was shared. They watched as the ice turned to water and streamed down into the sea and lit up the ocean and crept in slow motion toward a world they never did see. And people in lands around the planet were in shock as the light came to shore and lit up the beaches. And even their teachers couldn't say what the bright light was for. It flowed upstream through the mountains, burst out through their fountains, breaking all life's natural laws, till it lit up the planet. And all who lived on it were touched by this magical force, and they looked all around at the sky and at the ground. And they realized the damage they'd done. As they started to cry, their tears filled the sky, and the black storm clouds gathered above. And then the heavens opened, and the rains came to show them that their world needs a little more love. At the top of the world there's an island, a place where the sun never shines, but the people don't care, because the snow over there is so bright the sun's. Ed è ritornata la voce di Lee Hazelwood, giustamente, all'interno delle playlist di Eclettica. Lee Hazelwood, che poco prima di morire ha collaborato con Lea Mina per rifare Hilly, reintitolandola Hilly at the Top of the World, quindi in una versione leggermente diversa rispetto a quella contenuta nell'album originario del quartetto islandese. Prima ancora Time, Space, Repeat con The End of the World, ed ora invece un brano che rappresenta una novità per le playlist di Eclettica, un brano che fra l'altro nel giro di 7 giorni mi è arrivato in 2 forme diverse. Infatti mi è arrivato sia con l'album che originariamente lo contiene, ma anche all'interno di una compilation. Parto da quest'ultima compilation, che è il volume numero 2 di Zenatron. Zena, cioè Genova, sempre che si pronunci così alla genovese, non ho assolutamente nessun appartenente al mio albero genealogico che arriva da quella città, quindi non penso di essere in grado di dirlo correttamente, che quando uscì nel volume numero 1 trasmisi, penso, quasi esclusivamente con il remix dei Meganoidi. Ci sono solo artisti genovesi al suo interno, fra cui anche Q, ovvero sia lo pseudonimo di Filippo Quaglia, un cantautore inditronico che ha militato anche nei numero 6, poi si è dato da fare come produttore remixer, per esempio Casino Royale, Meganoidi, Port Royale, Busta, Exotago, e esordisce con un album prodotto, registrato e missato da Paolo Benvenu. Forse solo registrato e missato, non prodotto, non vorrei sbagliarmi. Album intitolato Le proprietà elastiche del vetro, che esce per una neonata etichetta di nome Micropop. Ci ascoltiamo quindi Q con il brano intitolato Sei giorni nella vasca. Ormai sono sapore liquido. Carlo Stresa compiva 29 anni quel giorno e il numero gli fece uno strano effetto, suono sgradito, inconsueto. Si era abituato a dire 28, 28, 28 per 365 giorni in fila e adesso non riusciva a capacitarsi di non poterlo più dire. E per un solo giorno, poi, per le ultime 24 ore soltanto neutre e grigie come le migliaia d'ore passate da quando era nato, fino a martedì. Ieri aveva 28 anni e adesso uno di più, di punto in bianco. Ora ne aveva ammucchiato di colpo 29, come uno, quel droghiere là, per esempio, sulla piazzetta, che domani, fra solo 12 ore qualche cosa, ne potrebbe anche compiere 30. Questo era l'incipit dell'uomo che camminava per le strade, di Silvio D'Arzo. We'll be right back. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 17, volume numero 3. Indice: Cat Power, Get Well Soon, Drink to Me, Kelly Stoltz, The Warlocks, The Mountain Goats, Tall Furs, Time Space Repeat, Amina assieme a Lee Hazelwood, Q, Evangelicals. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.